TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Inaugurato a Codroipo il nuovo ospedale di comunità, una delle prime strutture di questo tipo a essere aperte in regione in attuazione della riforma della sanità territoriale. A Udine si sta tenendo il meeting del volontariato, a confronto i rappresentanti del terzo settore di 24 realtà del territorio, impegnate nei servizi alle comunità, nel welfare e nelle attività rivolte ai giovani e all'ambiente. Al via la prima delle tre giornate di raccolta promosse dalla Caritas diocesana di Trieste per le persone e le famiglie in condizione di povertà. Aperta in 6 negozi e supermercati, una raccolta di prodotti per l'igiene personale e della casa. Avvicinare i mercati sempre più interessanti di Stati Uniti e Canada per il turismo del Friuli Venezia Giulia. Questo è lo scopo della delegazione di operatori del settore che ha concluso una 4 giorni di incontri oltre oceano organizzata da Promoturismo FVG. Nostra intervista a Irina Shcherbakova, cofondatrice dell'Associazione Russa per i Diritti Umani Memorial, vincitrice del Nobel per la Pace nel 2022, presente a Udine per ricevere il premio Friuli Storia. Le 12:31 minuti e 15 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e da Lorenzo Ghellinzoni che condurranno insieme anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 25 ottobre, mancano 2 mesi al Natale tra l'altro. È stato inaugurato dunque questa mattina presso il comprensorio del distretto sanitario il nuovo ospedale di comunità di Codroipo. Si tratta di una delle prime strutture di questo tipo a essere aperte nella nostra regione in attuazione della riforma della sanità territoriale che è prevista e finanziata dal PNRR e che prevede appunto l'attivazione di case di comunità e ospedali di comunità. La riforma andrà a regime il prossimo anno con 36 strutture di questo tipo che saranno operative su tutto il territorio. Apre a Codroipo il primo ospedale di comunità costruito da zero in Friuli Venezia Giulia. Inaugurazione alla presenza dei sindaci del Medio Friuli e dell'assessore alla salute Riccardo Riccardi. La struttura sorge nell'area del distretto sociosanitario, punto di riferimento cruciale per la medicina del territorio nel Codroipese. L'ospedale di comunità contiene 40 posti letto, 20 riservati a chi proviene dall'RSA, 12 per la parte hospice, 8 per pazienti con gravi cerebrolesioni. Si tratta di uno dei primi progetti sanitari completati in Friuli Venezia Giulia, finanziati in parte con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che guarda con attenzione alla sanità, soprattutto per la parte del territorio. L'ospedale di comunità, infatti, accoglie persone che non hanno bisogno di un ricovero ospedaliero, ma non possono ancora essere gestite a domicilio. Lo stesso PNRR prevede la creazione delle case di comunità, punto di accesso ai servizi sociosanitari, con presa in carico continuativa e multidisciplinare. Le prime 3 case di comunità saranno inaugurate inizio dicembre, prevede il direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Denis Caporale, che nel suo discorso si è lamentato per l'eccessivo numero di interrogazioni provenienti dal Consiglio regionale. L'edificio è conforme ai più elevati criteri di efficienza energetica ed è neutrale dal punto di vista delle emissioni carboniche. Codroipo, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A livello nazionale il mondo del volontariato paga la crisi demografica e forse un minore appeal tra le giovani generazioni, ma in Friuli Venezia Giulia può contare su uno zoccolo duro di 167.000 persone impegnate sul campo per dedicarsi all'aiuto alle persone e al territorio, con una percentuale di attivi che nella popolazione over 15 è dell'8,8% nell'ambito delle attività organizzate e del 7% in quelle non organizzate, per un totale del 14,4% sommando i 2 ambiti contro un dato nazionale del 9,1. È una fotografia che è stata scattata in occasione del meeting in corso a Udine. Ne abbiamo parlato con Marco Iob, portavoce del Forum Terzo Settore Friuli Venezia Giulia. Qual è lo stato di salute del volontariato in Friuli Venezia Giulia? Il volontariato tiene da un certo punto di vista, faccio riferimento al recente rapporto dell'Istat in Italia, che ha evidenziato un calo del numero di volontari nel paese. In realtà nella nostra regione questo calo è molto più ridotto, quindi possiamo dire che in termini numerici tiene. Noi come forum del terzo settore regionale siamo impegnati a favorire un quadro di relazioni istituzionali che favoriscano proprio lo sviluppo e il rafforzamento del volontariato in regione e quindi far sì che il volontariato, soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione, quindi con le scuole, con le aziende sanitarie, con i comuni, con la regione, possa avere un quadro di relazioni, un quadro normativo che favorisca proprio quello che ormai è un ruolo molto importante del volontariato, che è quello di lavorare insieme con queste istituzioni, soprattutto nell'ambito sociosanitario, ma non solo, anche nell'ambito ambientale, culturale, sportivo e tutti gli ambiti in cui il volontariato opera. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E la settimana dello screening cognitivo tramite test gratuiti di primo livello. L'obiettivo è quello di individuare possibili disturbi come la demenza e altri problemi cognitivi, le cui cause, se individuate in tempo, possono essere prevenute o rallentate con scelte sane e consapevoli. A promuovere l'iniziativa è l'associazione pordenonese Network Link to Care. Oggi l'appuntamento per tutta la giornata è presso il mercato di Chions, poi la settimana prossima, lunedì a Pravis Domini, martedì a Prata, mercoledì a Maron di Bruniera, giovedì a Fiume Veneto, per finire poi sabato 1 novembre al mercato di Pordenone. Al via oggi la prima delle tre giornate di raccolta promosse dalla Caritas Diocesana di Trieste nell'ambito del calendario della solidarietà a favore delle persone e delle famiglie in condizione di povertà. La giornata odierna è dedicata in particolare alla raccolta di prodotti per l'igiene personale e per la casa. Sei i negozi e i supermercati che aderiscono all'iniziativa in città. Essere in difficoltà economiche fa male, non poter garantire a se stessi e alla propria famiglia, in particolare ai figli, un'esistenza dignitosa è un'esperienza che provoca dolore. La Caritas Diocesana di Trieste lancia una nuova iniziativa che diventerà un appuntamento fisso per restituire ai fragili, anche a quelli solo momentaneamente tali, un po' di sollievo. Visti i crescenti bisogni delle persone e delle famiglie anche a Trieste, da quest'autunno la Caritas ha definito il calendario della solidarietà, nel quale sono previste tre raccolte con date già fissate, due dedicate ai prodotti alimentari e quella di oggi finalizzata alla raccolta di prodotti per l'igiene personale per la casa, attivata in diverse filiali cittadine di catene del settore. Anna Rita Villa della Caritas di Trieste. Punta a riconoscere un diritto che è di ogni essere umano di star bene con se stesso e di poter star bene in un posto che profumi di pulito, quindi anche il desiderio di avere un deodorante, di poter sentire il bimbo, la bimba, il compagno, la compagna che ha un profumo e racconta tante storie, permette anche di vivere delle situazioni, delle circostanze che nelle famiglie normali sono garantiti appunto dalla normalità. Quindi raccolta per l'igiene è un bene di prima necessità, non solo dal punto di vista della salute, ma proprio dal punto di vista della vita dell'essere umano. Quanto donato verrà distribuito ai servizi della Caritas diocesana e alle parrocchie della diocesi. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile sulla nostra regione. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 16 gradi, a Gorizia e Udine 13 gradi e 5 decimi, a Pordenone 15 gradi, a Tarvisio 7 gradi, a Forni di Sopra 9, a Tolmezzo 10 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 8 gradi, a Sappada 3 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 3 gradi, sullo Zoncolan 1, sulla costa a Grado 16 gradi, a Lignano 14. Le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, nelle prossime ore possibile maggiore nuvolosità, non si esclude del tutto qualche rovescio sul Carso. C'è stata una nuova manifestazione ieri sera a Pordenone da parte del Comitato per la Palestina, circa 150 le persone scese in piazza con fiaccole, bandiere, striscioni e con il grande lenzuolo preparato dall'associazione Carnia per la Pace, con i nomi dei bambini morti sotto i bombardamenti israeliani a Gaza. Dopo un presidio in piazza Risorgimento, il corteo si è snodato lungo le vie del centro, fino a raggiungere Piazza Cavour sotto il controllo discreto delle forze dell'ordine per una manifestazione che si è svolta pacificamente. Al termine gli interventi per ribadire la volontà di tenere viva l'attenzione sulla situazione in Medio Oriente. Non lasciamo che il mondo dimentichi, ha scritto il Comitato Pro Palestina su Facebook. Teniamo accesa la luce su queste vittime innocenti e sulle loro famiglie. Chiediamo verità e giustizia, scrive ancora il Comitato, perché i responsabili siano consegnati alla giustizia. E questa mattina il coordinamento No Green Pass e oltre, insieme ad Alistair, Insieme Liberi e alla Tavola della Pace del Friuli Venezia Giulia, ha dato vita a un presidio in Piazza della Borsa a Trieste per protestare contro la consegna della bandiera di combattimento alla nuova nave da guerra che porta il nome della città. La consegna è prevista per domani nell'ambito delle celebrazioni per l'anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Una celebrazione, secondo i manifestanti, che punta a legittimare il ruolo di Trieste come porto di guerra. Non possiamo stare in silenzio. silenzio, si legge nel volantino che convocava la manifestazione, mentre un porto che dovrebbe essere demilitarizzato e neutrale secondo il diritto internazionale viene utilizzato per i piani di guerra della NATO, degli USA, dell'Unione Europea e del regime sionista. E siamo alla cronaca. Nell'ultima settimana la polizia stradale di Udine ha effettuato un controllo presso una nota concessionaria dell'Interland udinese, riscontrando varie violazioni come l'assenza della licenza commerciale per l'esercizio dell'attività di vendita veicoli, la mancanza del certificato di prevenzione incendi, nonché la mancata copertura assicurativa di circa 15 veicoli di proprietà della concessionaria, che erano parcheggiati in un'area esterna alla stessa, accessibile al pubblico. Situazione analoga era stata riscontrata già nel mese di marzo in un'altra concessionaria della zona. Avvicinare i mercati sempre più interessanti di Stati Uniti e Canada per il turismo del Friuli Venezia Giulia. Questo è lo scopo della delegazione di operatori del settore che ha concluso una 4 giorni di incontri oltreoceano organizzata da Promoturismo FVG. La promozione turistica del Friuli Venezia Giulia è volata oltreoceano ed è sbarcata negli Stati Uniti ed in Canada. 8 operatori turistici della nostra regione hanno incontrato una 70 di tour operator locali in 2 workshop a New York e Toronto. Dopo la pandemia, il mercato turistico del Nord America ha registrato un aumento di visitatori del 19%, grazie anche alle iniziative organizzate nel 2024. L'obiettivo ora è stato quello di consolidare ed ampliare il bacino dei potenziali turisti, puntando sul patrimonio culturale, sulla varietà delle esperienze e sull'enogastronomia. Siamo particolarmente soddisfatti per il continuo interesse che hanno manifestato i tour operator statunitensi e canadesi nei confronti della nostra offerta turistica, ha commentato il direttore generale di Promoturismo FVG, Jacopo Mestroni, che ha guidato la delegazione regionale in questi 4 giorni. Stiamo definendo i primi contratti, forti anche del fatto che proponiamo un'area diversa rispetto all'Italia classica. Il viaggio si è concluso ieri sera nella capitale canadese con una cena di beneficenza organizzata dalle Famee Furlane, in cui sono state messe all'asta le maglie autografate dell'Udinese Calcio, dell'APU, della Pallacanestro Trieste e di Cividale. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'impatto dei social media e il rischio dei danni che possono provocare alla salute mentale di bambini, adolescenti e adulti è al convegno delle illusioni delle relazioni digitali, dai social media all'intelligenza artificiale che si è tenuto a Udine. I due relatori Giuseppe Riva e Luca Chittaro hanno analizzato le recenti scoperte delle neuroscienze sociali e cognitive e dell'interazione tra persona e macchina. Al centro i dati preoccupanti dai quali emerge che la situazione è peggiorata sensibilmente negli ultimi 15 anni col progressivo passaggio da un'infanzia basata sul gioco all'aperto e l'interazione faccia a faccia a una infanzia dominata invece dall'interazione mediata da strumenti digitali e maggiore difficoltà nel provare e comunicare emozioni e sentimenti. Si è parlato anche dei social come opportunità per l'espressione creativa, strumento di connessione globale e per l'apprendimento informale. Irina Scerbakova, cofondatrice insieme al fisico premio Nobel per la pace 1975 Andrei Sakharov dell'Associazione Russa per i Diritti Umani Memoria, alla sua volta vincitrice del Nobel per la pace nel 2022, ha vinto la 12ª edizione del premio Friuli Storia per il libro intitolato Le mani di mio padre, una storia di famiglia russa. Scerbakova ritirerà il premio oggi alle 17.30 all'auditorium del Centro Culturale delle Grazie a Udine. Nell'occasione la vincitrice terrà una lezione sul tema La mia vita attraverso l'Unione Sovietica. L'abbiamo intervistata. Oggi io purtroppo non vedo la possibilità di un cambio di regime in Russia finché Putin è al potere, questo è un grave problema. Non cerca giri di parole per descrivere il difficile momento della Russia, Irina Scerbakova, di ritorno a Udine per ritirare il premio Friuli Storia. Scerbakova è cofondatrice dell'ONG russa Memorial, sciolta dalla Corte Suprema poco prima dell'invasione dell'Ucraina, ma insignita del Nobel per la pace nel 2022 per il suo lavoro di denuncia dei crimini del regime sovietico e non solo. La maggior parte della società in questo momento non è pronta a proteste serie contro tutto questo, non è pronta a indignarsi davvero e ha in larga misura normalizzato questa guerra, cerca di guardare dall'altra parte e di aspettare che passi. Entro fine anno 135.000 giovani saranno richiamati al servizio militare. La prima ondata di mobilitazione ha causato la fuga di decine di migliaia di russi. Ma ora Putin, dice Scerbakova, ha scelto la strada di comprare il consenso. Includendo un contratto con l'esercito, c'è la possibilità, soprattutto per le persone che vengono dalle province, dai villaggi, di guadagnare soldi inimmaginabili. E questo ha portato a un atteggiamento cinico verso la guerra. Questo pomeriggio all'Auditorium delle Grazie la consegna del premio conferitole dalla giuria del Circolo della Storia, comunità forte di 1600 adesioni. L'attività di Memorial continua clandestinamente in Russia e all'estero. Poche le speranze riposte sui sforzi diplomatici statunitensi. Io spero davvero che questo scambio cinico tra Trump e Putin non porti a una pace ingiusta, perché questo danneggerebbe l'intera Europa. E l'Europa, e questo riguarda anche l'Italia, non può più fare affidamento per la sua difesa sugli Stati Uniti come era in passato. Lo vediamo con tutta la storia di quello che è successo con la NATO. È importante che i paesi europei se ne rendano conto. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli questa sera cominciano le stagioni musicali del Teatro Verdi di Pordenone e del Giovanni da Udine con due protagonisti del panorama classico internazionale. Da un lato Alexander Longqvist con gli ultimi due concerti per pianoforte di Beethoven, dall'altro Tom Copeland che dirige un oratorio di Handel. Nella stessa sera due appuntamenti di livello assoluto tra Pordenone e Udine. Il pianista tedesco, beethoveniano di ferro e di lunga data, arriva al Verdi, nel capoluogo del Friuli occidentale, nelle vesti di solista e direttore, a capo dell'orchestra da camera di Monaco, e darà vita prima al concerto in sol maggiore, il più intimo e raccolto fra i cinque composti da Beethoven, e poi a quello in mi bemolle maggiore, noto come l'Imperatore, dove invece la tecnica pianistica e la brillantezza di scrittura sono in primo piano. Decisamente meno consueta la proposta del Giovanni da Udine, Tom Copeland alla guida dei suoi complessi, l'orchestra e il coro barocco di Amsterdam esegue Atalia, oratorio di George Friedrich Handel, una pagina meno nota rispetto ad altre dello stesso genere e dello stesso autore, ma che ne condivide l'energia, l'inventiva e il virtuosismo vocale e strumentale, tutto questo nelle mani di specialisti assoluti della musica barocca che hanno portato questo repertorio nei teatri di tutto il mondo. Andrea Vardaniga, TGR Friuli Venezia Giulia. La compagnia del teatro dell'opera di Wuxixi della provincia di Jiangsu presenterà un classico della cultura cinese al Teatro Odeon di La Tisana, uno spettacolo offerto alla cittadinanza dal Ministero della Cultura cinese con l'Istituto Internazionale di Cooperazione Culturale di Vienna. Si tratta della Pagoda di Perle, uno spettacolo di poesia, musica, danza e tecniche acrobatiche con costumi e trucchi caratteristici. Dopo il debutto europeo a Vienna, lo spettacolo arriva in Italia con un'unica tappa, oggi alla Tisana alle 20:30. Come detto, l'ingresso è gratuito, chi vorrà potrà approfittare per un'offerta libera che sarà devoluta a tre associazioni di volontariato. Lo sport calcio, l'Udinese oggi alle 15 allo Stadio Friuli affronterà il Lecce con l'obiettivo prioritario di conquistare i tre punti. Per l'allenatore dei bianconeri Rugnaic sarà fondamentale partire bene fin dall'inizio. Basket in A2 dopo la brutta sconfitta interna nell'ultimo turno contro Ruvo di Puglia, la Gesteco Cividale affronterà oggi nello storico palazzetto mestrino Giuseppe Taliercio la neopromossa Gemini Mestre per il debutto di un nuovo derby triveneto a livello di Serie A2 dopo che le due società si erano già sfidate in due stagioni in Serie B nazionale, palla 2 alle 20. Domani invece in Serie A grande attesa per il derby tra Trieste e Udine in programma alle 18, una storia di sfide che si ripete da anni. Trieste e Udine una rivalità piena di significati e anche di storia che va oltre il campanile. Gli anni 70 e 80 scorrono su binari abbastanza paralleli. Doppia vittoria friulana nell'82, l'Alabarda si vendica nell'84-85. Altro basket, quello dei Bettarini e dei Tonut. L'ultima doppia sfida con due soli stranieri e manciate di ragazzi locali è quella dell'89-90. Al Carnera vince sorprendentemente Udine. A ritorno non c'è partita, allora Stefanelli Tani, vice Middleton, si invola verso la 1. Poi nulla per 11 lunghi anni, gennaio 2001, non più Chiarbola ma Pala Trieste, in panchina due giovani per la Telit Luca Banchi, ora coach azzurro, e per la neopromossa Snyder il triestinissimo Matteo Boniciolli. Una partita memorabile con il detestato ex Alibegovic, padre di Mirza, oggi capitano bianconero, i friulani volano ma vengono ripresi in 10 minuti paradisiaci da Scuni Penn, Trottolino che sotto San Giusto lascerà il segno solo per quei 37 punti nel derby. Come finisce? 80-83, canestro di Charlie Smith, fenomeno NBA e vittoria udinese. A ritorno Banchi non c'è più, sostituito da Cesare Pancotto, il Carnera Trieste si impone e si salva e con il coach marchigiano, che poi una volta fallita la società si siederà sulla panchina dei rivali storici, inizia un periodo dove nel capoluogo ci sono molti meno soldi che alla corte di Snyder, eppure i derby li vince tutti, tranne l'ultimo, 6 di fila. Poi gli anni bui, al fallimento di Trieste segue quello dell'allora PAU. Per 12 anni, neanche nelle categorie minori non si parla di derby. Bisogna aspettare il 2016-2017. C'è il friulano Mauro, presidente di Biancorossi, mentre a Udine c'è già Pedone. Al Pala Trieste non c'è storia con Parks e Green. Al ritorno a Cividale a causa dei lavori al Carnera, l'Appu si rifà con Weidman e il friulano, ovviamente ex Mastrangelo. La GSA non fa sconti l'anno successivo. Due derby su due, il secondo è supplementare con Magata di Raspino. Nemmeno a dirlo, ex di giornata. Trieste sale però in Serie A, dove resta 5 stagioni, prima di tornare una categoria sotto nel 2023, dove le sfide tra regionali si risolvono negli ultimissimi secondi. Tabellata di Eli Brooks in faccia ad Alibegovic al Pala Trieste, nel derby più brutto di sempre. Clark ricambia l'impianto dei Rizzi, seminando Reyes e facendo impazzire Udine, perché alla fine sono 40 minuti di pazzia, dove la razionalità la si può lasciare a casa, senza eccessi ovviamente. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Pallanuoto in A1 maschile Trieste ospita nella Piscina Bianchi la formazione del Palermo alle 15.30. Tornare subito al successo sarebbe importante anche in chiave classifica per riportarsi immediatamente al quarto posto, al momento appannaggio proprio dei siciliani. Serve maggiore convinzione, ha detto l'allenatore Maurizio Mirarchi. Più tardi alle 18 a scendere in acqua, sempre alla Bianchi, saranno le orchette giuliane che affronteranno le ragazze di Genova per la quarta giornata del campionato di Serie A1 femminile. Obiettivo: difendere il primo posto in classifica, che ora è in coabitazione con il Rapallo. Domani sulla terza rete a diffusione nazionale andrà in onda la rubrica Est Ovest curata dalla nostra redazione. Questi gli argomenti che saranno trattati. L'intervento di Trump per creare una trattativa per l'Ucraina, l'incrocio degli interessi delle nazioni con quelli delle multinazionali. Le incertezze politiche della Bosnia ed Erzegovina ed il ruolo dei militari italiani impegnati nella missione di pace EUFOR. Gli scatti del fotografo Elton Glava, autore di un reportage sociale realizzato nelle miniere di cromo a Bulcic in Albania. Il risorgere della cultura e della tradizione delle comunità Arbresh in Molise, ponte tra la società italiana e quella albanese. Lo storico Alessandro Barbero a Caporetto in Slovenia per spiegare a migliaia di ascoltatori che cosa è stata per l'Italia la disfatta del 1917. Tutto questo a Est Ovest domenica alle 11.05 minuti su Rai 3. E sempre domani, ma alle 8.50, su queste frequenze torna la rubrica Vita nei Campi. Questo è il sommario della puntata. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani fa il punto sul nuovo alieno, la mosca bianca degli agrumi, insetto da quarantena che Ersa si impegna a eradicare. A seguire, nella poesia friulana del Cinquecento, le ricette di cucina dell'epoca, frumento da pane, riflessioni sui casi di rotazione con non leguminose. E ancora la Repubblica delle banane, come la quarta commodity alimentare ha condizionato economia e politica in America. Anidride solforosa alla base della conservazione e in parte della salubrità del vino. Nel sistema regionale delle aree protette, le zone della rete ecologica europea Natura 2000. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo con una nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Altri appuntamenti in programma oggi: l'ANPI di Udine propone al pubblico due visite guidate date gratuite per scoprire il più ampio archivio storico della Resistenza in Friuli Venezia Giulia alle 16.30 e alle 17.30 all'ex caserma Osoppo. Varcare la frontiera, tolleranza, è il titolo della rassegna che sarà inaugurata per la 12ª edizione oggi a Trieste alle 16 al Mercato Coperto. Sarà presentata l'installazione diffusa di manifesti d'artista in Piazza Goldoni, Piazza Garibaldi, Viale D'Annunzio e appunto allo stesso Mercato Coperto. La nuova stagione del Teatro Pasolini di Cervignano si inaugura stasera alle 20.45 con lo spettacolo acrobatico The Black Blues Brothers. Per Coto canta, a Gorizia si alza oggi il sipario sulla piccola Sanremo del Friuli Venezia Giulia. 12 finalisti che saliranno sul palco del Teatro Verdi questa sera alle 20.30 per aggiudicarsi il montepremi che è di 10.000 euro. A presentare la serata Luca Pitteri e Bianca Azzei. Alle 18 al Palitama Rossetti di Trieste in sala Assicurazioni Generali andrà in scena Pimpa, il musical a Pua prodotto da Fondazione AIDA. E prima di chiudere ricordiamo che questa notte tornerà l'ora solare, quindi le lancette dell'orologio dovranno essere portate indietro di un'ora, insomma si dormirà di più questa notte. L'ora legale ritornerà poi domenica 29 marzo 2026. E alle 12.55 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Gherinzoni e Giorgio Bearz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR oggi alle 14.30. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.